solo Mimmo con lo fusco che te la canto non muoia guai. Ti innamore speciale, un amore tormentato che face stare male, che face sognare e che mai può spicciare. E mi ozzo la mattina e mi corco ogni sera, tra la capo stai sempre una cosa che ogni giorno mi dispera. Senti che bella vagnona, caro cuore mi faci zumpare, e mo qua di tu statico, l'amore mio ti l'aggiudare. E mo spiegami come si face, se rimane indifferente, che ogni volta che aiuta e penso, me si illumina tutta la mente. E te la canto un trasto reggae, in dialetto come capisci, così non mi puoi più dire che te stile siamo diversi. Me una bella bagnona, state qua e come senti, e di sera è lo cielo, e chi nude stelle cadenti, che illuminano lo mare, cali piedi in sta bagna, e l'amore a mezza nuova, lo sapi che amoregna, mi dimone, c'è ti dico, queste belle melodie, io te amo principessa, e sta musica te pettie, strettamente te lo cuore, lo sai che tra sta canto, stavo qua sotto alla luna, tra l'Uione e l'Usalento, amore mio qua te scarpa, e te piccia chiaro chiano, svegliami forte, forte, forte, non me lassare più la mano, raggiungite qua lo ripeto, l'amore mio, l'aggiudare e la bagnona dammi un bacio mo di fronte a stumare. E mi ozzo la mattina e mi corto ogni sera, dalla capo stai sempre una cosa che ogni giorno mi dispera. Sentiti e bella vagnona, caro cuore mi faci zuppare, e mo qua di lusta dico, l'amore mio ti l'aggiudare. Sembra tutto un sogno tra sta giornata d'estate, oh amore mio tutte ste cose adolerà lassate, sicuro che non sta dormo da me un pizzico e vediamo c'è vero, oh esine amore mio devi sciucqua con lo vestito nero, quindi capiti che scendo un occhiano e di wecchi meravigliosi, sembri proprio la più bella tra un mazzo di fresche rose. Restiamo ancora qua insieme e solo non mi lasciare, cagi non so capaci puro con mi va un fuoco tra stu mare. Fusco moe, zitti è la più bella voce a pacire stu vagnone, zitti è la stella gatta brilla non filo timone, quando mi fece antime mi tremola pure a mie lucore, zitti proprio una bella coppia chi ne deve era amore, la mano tra la mano trasmette armonia e calore, calore che non può spicciare di niente fuego tutte le ore, la scarpa arma il corpo unendo tutte le sensazioni, e modo cristiani che taccio a ste cose non danno valore, ogni volta il tu mi contagato sente un bagliore, che illumina la strada giunta qui non fa nessun errore, casi intimo ed importante come per tutte delusole, elemento fondamentale che scarpa tutte ste emozioni, bagnone assente a me lo dei cristiani lascia stare, cristiani che ne invidia come uno sale in ciallumare, casavano solo loro quello che è bene e quello che è male, cavallano credono e cercano solo quel danno scappo morale. E mi odio la mattina e mi corco ogni sera, tra la capo stai sempre una cosa che ogni giorno mi dispera. Sentiti e bella vagnona, caro cuore mi faci zumpare, e mo qua di rusta dico, l'amore mio ti l'aggiudare. ayudar.